Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la corta regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Se non ne avete ancora abbastanza o desiderate rinfrescare o insomma c'è la replica, vi ricordo la replica, la notte tra lunedì e martedì, poco dopo l'ultima news, diciamo attorno all'una di lunedì notte. Thank you.